quanto sole su di noi. Tu appartieni a me come un sentiero e passi suoi, quanto sole su di noi. Sei nascente come se fosse giorno nuovo in me, quanto sole su di noi. Non ho più paura, forte di te mi innalzerò con te. Yeah.